YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, buonasera e bentornati a Radio Tube. Abbiamo passato 2 ore insieme con il Sabato del Villaggio. Adesso è arrivato Daniele Bellasio. Siamo qua in montagna, voi non lo sapete fuori, però qui non hai più trovato il pulsante. Non riesco più a regolare l'aria condizionata. Te l'ho scritto prima sì, su Twitter, ma non siamo te l'ho qua con la sciarpa. Sembra, è lei fantocci quando vanno con la Giulietta sì, Spider. Sì, ma non lo so, guarda, deve averlo lasciato bellissimo. Così Oscar Giannino, che deve avere i bollenti spiriti, ha no, raffreddato lui lo studio. Un po' più strong di sì, noi. Sì. Io sono arrivata, c'erano i pinguini con la sciarpa, i pinguini. Ma va bene, è una puntata, nonostante andremo avanti tutto luglio. Bene, con sì, Radio l'ho Tube, detto, lasciamo l'ho detto questa, agli ascoltatori, questa l'ho temperatura. Detto. Lasciamo per tutto luglio. Sì, allora Radio Tube, cancelletto Radio Tube, i nostri account Twitter sono @MartaCagnola, @DiBellasio. Io volevo proporti di mostrare d'ora in poi alla radio anche le foto, perché questa settimana ho scoperto Instagram. Basta. Beh, ma sei troppo avanti. Sono avantissimo. Spotify 2 o 3 settimane fa. E adesso sono arrivata a Instagram, che come le cravatte nell'armadio degli uomini, no? Sì. Sai che c'è una gerarchia a seconda no, di quelle sapevo. Se le metti di più sono davanti. Scarpe, una gerarchia. No, gerarchia no, perché io le uso tutte. Ne ho tantissime, le uso tutte. Allora, comunque, fatto sta che Instagram è passata da una casella dentro alla terza pagina dello smartphone a fuori dalla casella nella prima pagina dello smartphone. Okay, perché l'ho okay, scoperto. Okay. Quindi noi dovremmo mostrare alla radio le fotografie d'ora in poi. Va bene. Beh, io nel mio Instagram ho soprattutto foto legate alle mie avventure lavorative. Ah, lavorative. Abbiamo scoperto tra l'altro la scorsa settimana che non mi seguivi. No, poi, infatti, e poi Daniele Bellasio ha aperto il mio Instagram e si è seguito da solo. Esatto. Adesso sto anche imparando con l'aiuto di alcuni consulenti che si possono fare col tuo team di consulenti. Bene, forse mica posso, non proprio un team, ma almeno un consulente. Che si può fare nitidezza, i filtri. Ma sei addirittura. E poi dopo, se uno non li mette. No, ma lo spiego. Magari non è che tutti sono su Instagram adesso. È il social network che cresce di più in questo periodo, ma no. Penso che crea un'atmosfera come il brand. Vabbè, basta. No, che cresce di più, certo. Cresce di più, mentre gli altri iniziano a essere un po' saturi, come si dice. Invece Instagram cresce, cresce, cresce. Poi, come abbiamo detto, chi apre un account Instagram ha ambizioni politiche, è proprio un'equazione paro paro, uguale. Ah, ok, ok. Io ho qualche guardate sospetto chi su qualcuno, di recente, ma... esatto. Sì, a Milano nei paraggi. Secondo me qui a Milano c'è qualcuno molto nei paraggi attivo. Di Expo. Andiamo avanti. Allora, però ti dico che le mie ultime 3 foto postate su Instagram sono 2 di Richard Gere, ovviamente. Una... Con te? Hai fatto un selfie? No, mi hanno fotografato mentre l'ho intervisto quella in mezzo invece è una granita alla mandorla con la brioche e anche con la panna, perché sono stata a Taormina. Ma sì, adesso sì, tanto hai lavorato, lì, certo. Guarda, a bordo piscina, ti passo il mio iPad. È vero iPad. Che hai questi capelli? Non hai capelli lunghissimi? No, non hai capelli lunghissimi. No, cioè, no. Vedi la foto sul mio Instagram, che è Marta Cagnola, mentre il tuo è Di Bellasio, vero? Sì, devo dire, non male. Questo Richard Gere si mantiene benissimo. 65 anni, ragazzi. Bravo. Allora, dai, parliamo di cose serie. Sì, mi no, hai segnalato video, questo video che mi ha fatto morire dal ridere, Daniele, sono impazzita. Sì, io l'ho rubato dalla pagina Facebook di Stefania Carini. Beh, tutto è condivisione. Sharing economy. Allora, secondo me bisogna far ridere di tutto, di tutti, con tutto e con tutti, e non ci devono essere personaggi che debbano essere al riparo dalle parodie. Come sei seria? No, certo. Ecco. E finora... Ah, non l'aveva imitato mai nessuno? Nessuno. Chissà perché, se era difficile da imitare o perché, essendo un personaggio così amato e anche così impegnato, poteva risultare indelicato. Non lo so. di chi stiamo parlando? Indoviniamolo guardando questo video, la radio, dai, giusto? No, spieghiamolo, diciamolo. Per bene, dai, perché altrimenti magari diciamolo. Qualcuno rimane un po' stupito. Allora, Piff, che non era, secondo me, mai stato imitato e sicuramente non con questa precisione, a fare una parodia straordinaria. Alla radio purtroppo non possiamo mostrare però lo il trovate montaggio. Facilmente. Non possiamo, anzi, magari adesso lo twittiamo, non possiamo mostrare il montaggio e le riprese, perché purtroppo in radio. Però è molto simile, sappiamo. Però molto simile. E sentiamo l'inizio di questo, non il testimone, ma il testimonial. Eccolo qua. Questo sono io, anche questo sono io. Oggi a Palermo fa un caldo infernale, ma io ho sempre freddo ai piedi. Tutto questo per dirvi che oggi parleremo della mia amata Palermo e del problema che da sempre la attanaglia, ovvero il traffico. A parte gli scherzi, come avete già capito, parlerò di mafia. Ma perché è il testimonial e non il testimone? Perché non soltanto fa film impegnati sulla mafia, ma sentiamolo. Sono disperato, Piff. Non c'ho più la mia impresa, mi devo aiutare, Piff. Ma adesso gli italiani ti aiuteranno, adesso ti stanno guardando, Che cosa? Ma adesso non è il momento, c'è il contratto, come la penale. Ma gli hanno bruciato le imprese, ma che minchia. Scusa un attimo, Ciccio. Che c'è? E niente. C'è che da oggi c'è una grossa novità. Con Dream Impresa Facile, se hai un'azienda, puoi navigare fino a 20 GB a soli 15 euro al mese. E se hai dei dipendenti, con la nuova app puoi stare connesso con la tua azienda ovunque tu sia. Passa a Dream Impresa Facile, abbiamo una soluzione ad ogni tua esigenza. Eh beh, dai, un po' spietato, perché però ci sta la parodia. È il sintomo del successo vero, tu hai un successo vero se hai una parodia. Noi quindi... non ci parodieranno mai. Ma poi l'ho visto, ma poi Piff l'ho visto lì su una passerella a qualche premio cinematografico, da te, da Taormina era, no? No, è che tu non... Cioè, sei proprio geloso, perché lui era con le Innocenzi, di la verità. Sono fidanzati, no? Sì. Cioè, credo sia ufficiale. Certo che è ufficiale, però tu non te ne fai una ragione. No, ma per Piff dici? Ah, no, perché so che hai un debole tu per le Innocenzi. Lo so, diciamolo che è professionale. Ah, sì. Era solo professionale. Allora, noi in questo RadioTube parleremo anche finalmente di politica. Ci siamo liberati da questa par condicio, dalle elezioni, non se ne può più. Ma è impossibile. Poi parleremo anche di basket. Sì, perché anche il basket non si avvia, conclude. Nulla. Ma non ti preoccupare. Ma no, guarda, io poi magari mi alzo, vado a prendere un caffè che non ho ancora preso. Sono molto fisicati, ti dovrebbero ricordare. Sono troppo alti però, per me. Ma non è detto. Della vedova che gioca con LeBron è una persona normale. Sì, è come normale? Ma un pochino di più, dai. È un po' più che normale, un filino più che normale. Vabbè, insomma, e poi andremo anche a mangiare un po' di Nutella, un po' di Nutella, sempre a dieta parti, stiamo. Sempre ad ecco. Ma prima il traffico del villaggio. A proposito delle tue parti ad Alba, c'è Piero che ci scrive su Twitter Cuneo climatizzatore a palla. Anche a Cuneo climatizzatori a palla. Salutiamo tutti a Cuneo. Salutiamo a Cuneo, anche tutti i climatizzatori. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, anche perché io questa settimana sono stata un po' distratta, perché gli ascoltatori lo sanno, sono stata a Taormina. Ma io non avevo ancora visto il book trailer di Silvio Berlusconi. Certo, finalmente l'English. No, è bellissimo. Ve lo mostriamo tra poco alla radio dopo la viabilità. Ah, fantastico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presento. YouTube. Daniele, forse adesso che sono passate 2 ore e un quarto dall'inizio del sabato del villaggio, forse sono riuscita a regolare la temperatura. Sì, ma io ormai sono ibernato dal collo in giù e quindi non me ne accorgo. Però dai, ci scaldiamo parlando un po' di politica. Finalmente perché... parliamo di politica. Una liberazione da questa par condicio. Poi io ho sempre paura di sbagliarmi, di dire una roba che non va. Tu c'hai un'ansia da par condicio. Sì, io sono... Sembra che povero Daniele. C'hai il garante dietro che ti guarda. Sì, ogni volta che Daniele mi dice qualcosa gli rispondo: no, ma c'è la par condicio. Qualsiasi cosa. Nello studio radiofonico, come sì, il garante sì, ti guarda. No, paura. Vabbè. Io sono una ragazza ligia al dovere. Sì, io non, sì, non carità, parcheggio neanche il divieto di sosta. Male non fare, paura non avere. Però ne parliamo con un grandissimo esperto. Ragazzi, allora io voglio veramente accoglierlo. Anche perché è molto attivo su tutti i social. Certo, ha anche un blog. Dico subito l'indirizzo del blog: guidogentili.blog.ilsole24ore.com. E quindi ho già detto il nome, il suo account di Twitter è Guido Gentili 1, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido Gentili. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera, settimana intensa, eh. Dai, ma vediamolo subito. No, che bello, io voglio bello. Subito. No, ragazzi, no, perché io... prima diamo la notizia. Comunque Silvio Berlusconi è un po' tornato perché le amministrative... non sono poi andate così male come si pensava, certo, per Forza Italia, e quindi è talmente entusiasta che si è dato alle lingue che non aveva mai frequentato. Perché sai che c'è una leggenda: lui non ha mai rilasciato interviste o non ha mai voluto rilasciare interviste ai giornali inglesi perché non si fida del suo inglese, evidentemente. Beh, d'altronde è un uomo che ha padroneggiato così tanto la comunicazione, probabilmente dice: non riesco a padroneggiarla alla perfezione. Questa volta beh, però invece la padroneggia. Ha fatto un book trailer, perché esatto, adesso si usano book trailer per il per questo libro che si intitolerà Ammazziamo il Gattopardo, la sua autobiografia raccontata attraverso la penna di Alan Friedman, prima e unica biografia autorizzata dell'ex premier, che uscirà in autunno per Rizzoli in Italia e per Hachette Books negli Stati Uniti. E siccome uscirà negli Stati Uniti è il book trailer è bellissimo, è in inglese, mostriamolo alla radio. For many years, many journalists have asked me to tell them my life story. I have always refused. I agreed to cooperate with Alan Friedman because I trust him. As Steve Jobs said to his biographer, I will tell you my story. You will write what you like. As Steve Jobs said, bellissimo, è bellissimo, Daniele. Sì. No, ma Guido, l'avevi visto sì, il video? No, il video non l'avevo visto. Quindi questa è una primizia, anche è se solo tramite l'audio. E ovviamente, diciamo, non manca mai di sorprendere Berlusconi, no? Quindi questo era, diciamo, impensabile fino a poco tempo fa, ecco, a un'iniziativa di questo tipo. Ma invece lui, diciamo, qualche sorpresa ce la riserva sempre. Eh sì, no, appunto, ce la riserva sempre. Ma per venire a cose più serie, ma è stato sorprendente il risultato delle amministrative? C'è un minimo di ritorno di Berlusconi in campo e in auge? Beh, c'è un, diciamo, un ritorno indotto, diciamo, da una situazione che è, diciamo, meno lineare e più complicata di quello che si prevedeva qualche mese fa, dove, diciamo, sull'onda del famoso risultato alle elezioni europee favorevole a Renzi con quel famoso 40%, prima le elezioni regionali, ma soprattutto secondo me le elezioni comunali, con quei risultati diciamo dopo i ballottaggi, raccontano totalmente un altro film, un'altra storia. E diciamo, per semplificare, se noi proiettiamo quei risultati delle comunali con dopo i ballottaggi su un possibile risultato nazionale con una nuova legge elettorale che si chiama Italicum, insomma, potremmo, diciamo, volendo fare un po' una provocazione, semplificando, potremmo dire che il paese, diciamo, c'è un 30% che vota oggi il PD di Renzi, un 30% grosso modo che sta con Grillo, e poi c'è un centrodestra diciamo che sta più o meno, se tutto riunito, anch'esso intorno al 30% e un 10% di sinistra, alla sinistra del PD. Beh, insomma, se ai ballottaggi arriva Renzi, ad esempio, o Grillo, o Renzi e il centrodestra, finisce che potrebbe finire come sull'onda delle comunali, che chi è arrivato poi al ballottaggio successivo dopo due settimane vota il secondo arrivato, e quindi con un risultato del tutto a sorpresa, come è capitato appunto alle elezioni comunali, dove ci sono stati dei candidati che al primo turno avevano il 18%, 20% e che al secondo turno, ribaltando totalmente la situazione, sono arrivati a prendere il 55%. Quindi è una situazione del tutto nuova, del tutto da interpretare, del tutto, diciamo, da leggere con occhiali nuovi, e in questo quadro Berlusconi ha ripreso un minimo, diciamo, di possibilità di azione. Tra l'altro ha anche ricominciato a comunicare con forza, ripartendo dal famoso, certo, ormai famoso Che tempo che fa con Fabio Fazio, nel quale aveva sfondato un muro che non aveva mai sfondato, appunto la presenza da Fabio Fazio. Tra l'altro c'è Cristian in regia che giustamente, Cristian Goldoni che mi aiuta a fabbricare il Sabato del Villaggio, ci aiuta a fare Radio Tube, che mi bacchetta al di là del vetro perché Ammazziamo il gatto pardo era il titolo dell'ultimo di Friedman, sì. Ma che però mi piaceva, perché dopo il caimano mi piaceva il gatto pardo, infatti quello aveva già dato, diciamo. Sì, infatti, però secondo me suonava bene. Però vorrei riportarvi un po' alla comunicazione, perché questa settimana io non ho visto tutta la puntata, confesso, però mi sono sintonizzata quasi verso la fine, mi sono divertita molto di quella puntata di Porta a Porta condotta da Matteo Renzi. Sì, ha condotta addirittura, ha intervistato Bruno Vespa. Sì, perché ogni tanto ho avuto quell'impressione lì. Beh, capita spesso con Renzi, non è molto facile cercare di... Che fosse il Presidente del Consiglio. Avrà fatto così anche la maturità, lui avrà interrogato i professori. Guarda, sì, poco ma sicuro, e infatti lui così a questo Porta a Porta, che era uno speciale notte prima degli esami, un po' come quello che abbiamo fatto noi. Sì, quello di Taddia, ha fatto questo notte prima degli esami estemporaneo con Matteo Renzi. Vergogno molto a dirlo, perché feci un pessimo compito di greco e feci un grandissimo orale, per cui mi vergogno molto. Cioè, lei ho preso 60-70 gli orali, è bravo, e quando poi bisogna fare lo scritto che è più complicato. No, le dico un'altra cosa. No, allora se la vuole buttare su questo Vespa, le dico che io a greco non sono andato molto bene, ma come me la sono cavata italiano, quindi lasci stare, quindi non la faccio questa parte. Non passa. Vabbè. Che poi ho fatto anche dei conti, se lui ha fatto greco allo scritto, l'ha fatto nel tuo anno, anche se più giovane. Io ho fatto greco, perché che sono un anno più vecchia, lo dico, ho fatto latino allo scritto. Ah, sbagliando due anni di fila, potrebbe averlo fatto due anni di fila? Perché io ho fatto latino, è andato malissimo. Anch'io ero andata bene all'orale, ma non ho fatto il Presidente del Consiglio. No, non ancora, però non mettere limiti alla provvidenza. Ma chi sa? Guido, mai? Dicevi prima che è una situazione un po' indotta quella del ritorno di Berlusconi, ma indotta dalla fine della luna di miele di Renzi con il paese? Sì, un po' per quello, e credo che comunque Berlusconi abbia bisogno di tempo per tornare, diciamo, non dico ai fasti dei risultati che ha avuto, ma insomma per riguadagnare terreno politico rispetto a qualche mese fa. Ha bisogno di tempo anche Renzi, e dico indotta anche perché se noi andiamo a vedere certi risultati, dove per esempio non so, il sindaco di Venezia è del centrodestra, però Forza Italia ha contribuito con il 3,7% e i voti sono arrivati in particolare dalla grande vittoria della Lega. Certo. Questo vale non solo, diciamo, per Venezia, ma vale, diciamo, per il Veneto in generale e anche per tutte le altre zone, dove la Lega è andata molto meglio ovviamente di Forza Italia, che è in arretramento. Quindi però questo consente comunque a Berlusconi di giocare la sua partita, sia nel dialogo con Salvini, con la Lega, sia dal lato di riaprire le porte al famoso patto del Nazareno, e quindi a un dialogo più intenso le riforme istituzionali con lo stesso Matteo Renzi, che è un altro che in questo momento ha bisogno di tempo. Abbiamo parlato della Lega, inevitabilmente in questi giorni il dibattito politico si è occupato moltissimo della questione migranti. È successo qualcosa di particolare? Definirlo dibattito politico, ho usato un eufemismo. Per esempio, cosa ha detto Enrico Mentana al TG La 7, raccontando qualcosa che era successo appunto in questo dibattito tra virgolette politico. Ecco, si può discutere di tutto, gli alfieri dell'accoglienza con quelli di una politica più intransigente, ma non scadendo a livelli come purtroppo stiamo per documentarvi, è arrivato a teorizzare nel modo che stiamo appunto per sentire un eletto, il presidente della provincia di Treviso, Muraro, in un dibattito in una televisione veneta. Siccome il 4% ha meno di 30 anni, dobbiamo bastardare la nostra razza con queste persone. Ma questo volete? Ho capito, questa è la vostra politica. Volete portare gli uomini di colore qui per bastardare la nostra razza. Allora, a me non va bene. Questo volete fare. Più che un problema di bambù, è un problema di bamba quello che abbiamo davanti. Enrico Mentana, lapidario direi. Sì. Mentana. Guido, tu che hai diretto testate importanti della stampa tradizionale, Il Mondo, Il Sole 24 Ore, sei però molto attivo sui social network, blog, dintorni. Come ti trovi? Come li vedi? Ti piace? Ti diverte? Sono utili? Cioè, a me piace, mi diverte. Vorrei essere ancora più presente, quindi a volte diciamo li trascuro un po', però secondo me sono uno straordinario elemento anche di conoscenza, perché io su Twitter ad esempio apprendo spesso molto più notizie che diciamo seguendo le agenzie di stampa, voglio dire, ecco, quindi questo va detto, quindi sono anche utili diciamo per chi svolge questa professione, oltre a dare la possibilità di un intervento diciamo di pronto intervento rapido proprio diciamo su tutti i temi, e quindi credo che sia un bel esercizio che impegna molto, perché se lo si vuole fare bene secondo me bisogna impegnarsi, perché non sono solo delle chiacchiere che si mettono in rete, e quindi credo che sia un bel esercizio anche per un giornalista professionista che svolge questa professione. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi, direttore, a presto, grazie. Ciao, a voi. Ciao, grazie. Io voglio anche ricordare una cosa che ci ha scritto la collega Francesca Milano. Che brava che riesce a fare tre cose assieme, riesce a leggere persino i suggerimenti dei colleghi, proprio brava. Ma certo. Che dice Francesca? Ma no, perché ci ricorda il famoso Social Berlusconi Media Editor insieme a Vito Lops, Michela Finizio, Marco Loconte del Sole 24 Ore, ci ricorda che? Del famoso Berlusconi a Camp David. Adesso io non lo posso ascoltare perché non ho l'audio dell'iPad. No, quello con Bush, mi ricordo che diceva no. Only the flag but a message of democracy, te lo ricordi? Voglio farlo. È l'inglese Brianzolo che tu dovresti conoscere, peraltro. Ma certo, io posso prendere in giro Berlusconi perché siamo però quello era una specie di fuori onda, no? Ma si erano trovati davanti alle telecamere e lui aveva detto the message of Obama, democracy. Straordinario. L'Italia è il paese che amo. Allora, abbiamo parlato di politica, finalmente siamo... Grazie Francesca per la segnalazione. Ci ritroviamo tra poco con l'altra delle passioni di Daniele Bellasio. Non pensate male. No, quella era quando quella, ero giovane. Quella, ecco. No, adesso tra poco parleremo di basket dopo una breve pausa. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Bomi, si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Radio Tube. Oh, è arrivato quel momento di RadioTube in cui io non capisco niente. Potrei andare a prendere un caffettino? Te lo spiego semplice. Sì, allora, io tra il basket poco, non lo capisco. No, tra poco io rischio di andare in analisi, perché tu te l'ho sempre detto, per me il basket ha la stessa funzione che ha la psicanalisi per molte persone. E cioè, dopo non ci sono più partite? Per un, no, cioè, finiscono le partite, no? Perché sennò sarà un'estate lunga, È un'estate bellissima, come Giovanotti dice, l'estate addosso, come la copertina di Il, stupendo, sì, di Christian Rock. No, dicevo, il basket è proprio, è liberatorio. Io quando sono nervoso, quando sono in cattivo umore, quando devo fare qualcosa che mi rilassi e mi faccia stare meglio, guardo il basket. Solo che stasera c'è gara 4 Sassari-Reggio a Sassari, giusto? Tu che stai controllando. Giornata di ritorno. E allora noi ne parliamo non con Flavio Tranquillo, che all'inizio di questa stagione, soprattutto NBA, ti ricordi, a RadioTube aveva aveva vinto tutto. Oggi direi Golden State Warriors, ci aveva preso. Ma non ne parliamo con lui, perché in realtà il massimo esperto italiano di basket, sì, anche americano, sai, sì, che lavoro fa? No, che lavoro fa? Non, cioè, come non lo, lo possiamo? Sì, perché la par condicio è passata. Sì, che lavoro fa? Fa il portavoce del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Si chiama Marco Dragone, è un amico e, giusto, l'abbiamo al telefono. Ce l'abbiamo. Buonasera, Marco. Buonasera a voi, buongiorno a tutti. Chiocciola Dragone Marco, però lui è uno che c'ha il cognome prima del nome. Chiocciola Dragone Marco, qualcuno avrà preso prima Marco Dragone. Sì, succede sempre così. Non è come Twitter. In questura. Sono poco Twitter, più Facebook, mi piace di più. Sì, anche di basket, lui commenta molto di più su Facebook, vero? Sì. Ma perché non sono tanto bravo, le immagini o i video si possono, mi sembra più facile su Facebook. Probabilmente non è così, però devo dire che il basket sui social network ha un spazio eccezionale, grazie soprattutto al lavoro della NBA e adesso anche un po' della Lega Basket italiana, della Eurolega, che è la stessa del Coppa dei Campioni, diciamo, che stanno puntando, seppur un po' in ritardo rispetto agli americani, anche loro sui social network. Allora, io qualche mattina fa mi sono svegliata molto presto per prendere un aereo, molto molto molto presto, e quindi no, perché se qualcuno lo sapesse è stata Taormina, no, vabbè, a bordo piscina, visto Richard Gere, va bene, andiamo avanti. Ma quanto antipatico. Ma quando fa che così non lo sapeva qualcuno, ma si era collegato adesso, ma Marco spiegando, magari non lo sapeva. Che antipatico che sei. Ha visto Richard Gere, Marco? Ma che bello, per sì, niente, non riesce a riprendersi. È che Bellato non riesce a reggere. Non gioca in nessuna squadra Richard Gere, quindi che non ancora. No, è che però capisci che il confronto pesa un po', e quindi Daniele si deve un po' liberare di questa cosa. Dai. Quella mattina lì cosa hai visto? Allora, apro la mia timeline di Twitter, sì, e praticamente la mia timeline, e ho detto era molto presto perché mi sono svegliata molto molto presto, era metà finale Game of Thrones, sì, metà NBA, cioè tutti, certo, si erano svegliati o non erano andati a dormire nella notte, c'erano tutti, sì, che usavano Twitter, tutti che twittavano o del finale della serie televisiva Game of Thrones o della partita dell'NBA. Perché questa notte è finito il campionato, questa settimana è finito il campionato americano, vincendo appunto i Golden State Warriors come ha pronosticato Tranquillo da voi, e c'è un popolo della notte che si alza o non va a dormire per vedersi in diretta le finali, e io faccio parte di questo popolo della notte. Come le vedi? Perché tu mi hai raccontato che le vedi in un modo molto particolare. Ma io, diciamo, le vedo attraverso il computer quasi sempre, cioè sono abbonato a NBA.com, che ti dà la possibilità di vedere tutte le partite del campionato e poi dei playoff, che sono più di 1000, con un abbonamento assolutamente a buon mercato perché sono circa $20 al mese, e si ha la possibilità di vedere tutte le partite dell'anno. È una possibilità che fa saltare in parte la questione dei diritti televisivi, per cui da tutti i computer del mondo si possono vedere in diretta tutte le partite dell'NBA. Cioè non ti dice loro... sei in un territorio che non è americano, no, e quindi no? No, tu, io a casa mia a Milano c'è una password e mi posso vedere tutte le partite dell'anno. E c'è il problema del fuso, che non bisogna esagerare, sono la mattina al lavoro, esatto, però insomma, in questo modo, diciamo, loro hanno fatto un'operazione di marketing mondiale eccezionale, perché permettono, indipendentemente dalle televisioni eccetera, tutto il mondo di vedere tutte le partite a un prezzo che poi alla fine sono più di 1000 partite, sono circa 10 centesimi, poco di più, di dollaro a partita. Non solo, le partite fanno dei servizi bellissimi e poi le interviste, tipo... Siete matti. Allora, Questa però l'ho vista anch'io, perché è stata condivisa dappertutto in rete qualche tempo fa, e anch'io che non capisco niente di basket mi sono divertita molto, mi sono intenerita molto. Conferenza stampa, gara 1 della serie di finale di conference tra... Sto leggendo, si capisce? Sì, capisce. Si capisce, intuisce, vero? Sì. Tra Golden State Warriors e Houston Rockets. Sì. Si è chiusa con la vittoria di Stephen Curry e soci, senza però troppa leggerezza. Vabbè, andiamo al sodo. Stephen Curry ha fatto questa conferenza stampa perché era doveva raccontare del post gara che era andato bene, ma cosa ha fatto? Mica è andato da solo? No. Si è portato Riley, la sua bimba che ha quasi 3 anni, in braccio. Che ha fatto la conferenza stampa con lui e la mostriamo alla radio. It's entertaining basketball, but it's we're both supposed to you know. That's too loud, Daddy. I know. Hold on one second, okay? Be quiet. We're both supposed to help our team win and do what we can to impact the game. So there's gonna be stretches where you know, he plays well and obviously he did that for his. Si annoiava, povera bimba, che diceva Daddy you're too loud, be quiet, papà, cioè parli troppo, va piano, tutto se ne va, simpaticissima, tanto carina. Però un'altra cosa che riguarda la NBA che ho scoperto oggi: allora, domani è il Father's Day in molti paesi del mondo, perché la festa del papà in molti paesi del mondo è la terza domenica di giugno. Invece, quindi auguri ai papà, mio papà. Auguri. Invece nel resto d'Europa anche lì Stati Uniti, terza domenica di giugno. Allora, si è festeggiato un po' di Father's Day anche nella NBA, in questo modo qua. Congratulations, man. Real proud of you, boy. Feels good? Oh, my God. Best feeling in the world, man. Oh, wow. You deserve it, man. You worked hard. What a 10 months has been for you, huh? I know. Yeah. From the jump. Nothing compares to this, to see your son realize his dream. I'm just so proud of him. Curry finds Thompson for three. Bang! Allora, Michael Thompson, che ha vinto 2 volte il titolo NBA, ha visto vincere il figlio Clay, ed è, ho letto, la 7ª coppia di padre e figlio che giocano, ovviamente in tempi e generazioni diverse, nella NBA. Bello. E questo video proprio era sul canale ufficiale di YouTube dell'NBA, aveva già centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Anche ovviamente l'intervista di... Ma Marco, tu chi ti favi NBA? Io ti favo Golden State, ma senza particolare passione. Volevo dire che è successo anche in Italia: il giocatore simbolo di italiano, che è Dino Meneghin, ha giocato contemporaneamente a suo figlio Andrea, perché Meneghin ha giocato fino a oltre 40 anni ed è stato in campo contro suo figlio, quindi è un caso ancora più unico di padre e figlio che giocano la stessa partita. Vero. È successo anche in Italia. Beh, straordinario, bellissimo, bellissimo. Siccome Daniele, il tempo sta finendo, sì, perché gli risparmiamo di parlare della sua sofferenza. Ma stasera chi tifi tra Sassari e Reggio, dopo che la nostra Milano se n'è andata? Ma Sassari, perché almeno avremmo perso da quelli che poi vincono il campionato. Sarebbe ancora peggio perdere dai futuri perdenti, almeno questo. Ah, vedi com'è. Si soffre, Milano nel calcio e nel basket quest'anno soffre. Beh, ci rifaremo tutti l'anno prossimo. Marco, grazie. Ciao, Marco. Per essere stato con grazie noi. Grazie a Marco Dragone. Grazie. Ciao. E grazie anche per questa lezione di basket. Prima o poi capirò qualcosa, perché per me è uno sport in cui non è che c'è fai una sempre palla, lo stesso canestro, ma non fai sempre gli stessi. Fai canestro, non fai sempre lo stesso numero di punti. Io non capisco. Però un canestro, un punto, no, non vabbè, può andare. Dopo, adesso dopo c'è mio. Una pausa. Durante il traffico ti faccio sì, un disegno. Adesso c'è la pausa per il traffico, poi andremo a sentire un po' dei grandi personaggi della rete di questa settimana, tra pochissimo. Radio Tube. Beh, stavo sorridendo durante la pausa per il traffico, perché ho aperto anche io Instagram, c'è il nostro amico Adriano Attus, art director del Sole 24 Ore, con non un paio dire di pantaloncini bellissimi. Sì, no, ma il problema è che è in redazione. Ma no, vabbè, ma no, l'aveva postato dire, da casa sua. Ma allora... che è a casa sua? Si vede benissimo, è lì che stava disegnando. Vabbè, allora pagine. Dopo andiamo a trovarla per controllare se c'è. Secondo me è un Photoshop, però sono veramente belli. Però andiamo a controllare se ma è vero. Veramente, ma certo che è vero. Daniele. Daniele, eccoci, siamo qua. Sei sempre a dieta tu e mangi sempre così poco perché sei sempre così in forma. Però questa settimana avevo una gran voglia di cioccolato. Una gran questa voglia di mangiare la Nutella proprio lì spalmata. Sì, guarda, anche sì, anche proprio direttamente dal baratto. Hai visto Agnese Renzi, che brava, che è andata lì all'Expo. Sì, che c'è, io mi faccio fotografare tipo Nanni Moretti davanti avvigliata come bidone. Un koala al bidone della Nutella. Come se noi dicessimo basta, da domani basta baguette. Basta baguette perché deforestano la deforestano, non so, potremmo parlare del foie gras per dire. Ecco. Oppure cosa potremmo parlare. Cosa è successo? Spieghiamo. Ségolène Royal. Tutti devono dire la loro sulla nutrizione che mi sta. Cioè, adesso è un po' troppo. Ségolène ha Michel, detto. Voleva essere da meno di Michel. Ségolène Royal, politica francese, molto ministro. Nota, bellissima donna, ministro dell'ecologia, sviluppo sostenibile ed energia. Sì. Ha detto basta Nutella. Sì. No, basta Nutella. Perché ha detto basta Nutella? Come ha detto basta Nutella? Sentiamolo, lo mostriamo alla radio? In francese, ma. No, in francese, così. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon Nutella. Ben oui, mais il faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres et donc il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant faut pas manger de Nutella. Ben, faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. E l'intervistatore, faut pas manger du Nutella, ma perché è francese, spagnolo, ma sei buono, ma scusa, ma se l'avesse fatto un ministro italiano, gli avrebbero tolto il passaporto diplomatico in Francia, citare un marchio francese, ma una roba. Il Nutella è venuto fuori il delirio, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Lo stesso intervistatore ha detto, beh, ma sei buono, fammela mangiare. Allora poi ha deciso di smorzare la polemica. Sentiamola qua, sempre. Ségolène. Vous avez dit, faut plus manger de Nutella. Un député italien réclame des excuses en disant. On s'attaque à l'excellence italienne, vous comprenez? Non, mais je veux pas polémiquer, voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit communiqué par Twitter, en lui donnant les excuses qu'il demandait, en disant, ben, regardons ensemble les progrès qui ont été accomplis, voilà, mais n'en faisons pas non plus... Voilà, c'était des propos tenus dans une émission qui se veut un peu humoristique, mais je comprends que ça ait pu, soulever un certain nombre de troubles, donc je veux éteindre la polémique. On peut continuer à manger de Nutella. Voilà. Allora, lei dice, mi hanno chiesto le scuse, io ho rettificato con un tweet nel quale effettivamente lei scrive mille excuse per la polemica contro le Nutella e non è vero e niente, però a me la voglia di Nutella. Ti è rimasta. Mi è rimasta. Ancora voglia di Nutella. Per colpa della Ségolène Royal. Royal Ségolène è il suo account di Twitter con 262.000 follower. Ma sai chi è il più visto ancora una volta su Twitter? Si parla sempre di lui, tutte le settimane. Non riusciamo a non parlare di lui perché effettivamente se ne parla tanto. Fedez, esatto. Queste settimane Fedez spopola. Sempre politica, nel bene, nel male, siamo sempre lì. Che con ha fatto Fedez. Questa settimana allora, Fedez? Fedez ha fatto una mega parodia della televisione, ma anche della politica italiana. Ha fatto un video che si intitola Non c'è due senza trash. Il titolo mi pare molto molto molto carino. Lui praticamente cosa ha fatto? Questo video in cui si parte con un finto scoop che viene architettato da un inviato di un programma trash, così a caso, e lui poi è travestito, ma chiaramente da Barbara D'Urso, dai, è chiaramente Barbara D'Urso, ma sì, dai, perché è lui in parrucca però, sì. E poi ha degli ospiti che sono Alessandra Mussolini, cioè c'è il sottopancia di Alessandra Mussolini, ma il nonno. Il nonno di Fedez? No. Il nonno di Alessandra Mussolini? Sì. Quindi Benito? Sì. Poi ci sono, c'è la Santanché, però c'è non il sotto, c'è il sottopancia ma è una bambola gonfiabile. Ma che cattivo. Poi ci sono i tre tenorini del volo, però. Però chi sono? Che però sono degli attori. E poi parodia della televisione tradizionale, ma i protagonisti del video, a parte Rocco Siffredi, sono. Che è lui o è. Che il nonno? È lui. No, è lui. Là in quella zona là è pixelato. Però è lui. Perché non è vestito? No, non è vestito. Non ci ho capito niente di questo video. Mostramelo. Poi perché ci sono è troppo complicato. I The Show, i Pantellas e Fabio Romanzi. Ma senti, praticamente per fare una critica della TV generalista ha preso gli youtuber. Bravo. Vedi, intelligente. Bravo. Ma allora guardiamo un pochino alla radio questo video di Non c'è due senza trash. Hai rubato? No. Questa ragazza stava uscendo dal negozio quando è suonato l'antitaccheggio. Ricordiamo che siamo in diretta, signori. Questa è solo televisione verità, signori. Cosa hai rubato? No, non hai rubato. Sei colpita dalla crisi. È una ragazza colpita dalla crisi. Probabilmente non arriva a fine mese. Fa parte del 40% dei disoccupati italiani giovanili. Cosa sta facendo? Cosa fai adesso? Cerchi. Ti lasciamo la linea, Fedez. Grazie. Ma buongiorno amici telespettatori e benvenuti a Pomeriggio 5. Cara Barbara, eccomi qua. Sono Pier Giorgio, il tuo grande fan. Dottoressa Gio, non sai quanto mi gasa. Ti seguo da sempre, a volte anche sotto casa. Il pomeriggio intero ho solo voglia di sapere i dettagli della morte di quel carabiniere, di quella che ha abortito due gemelli in consultorio. Ma non vi conviene fare le dirette in uvitorio. Cattivello, cattivello questo testo. Beh, insomma, 5 giorni fa pubblicato già 1 milione di visualizzazioni. Ammazza, bravo. Sì, è il video più visto in ma questo periodo su YouTube. Suo canale? Allora, io lo vedo dal canale Fedez Channel, 897.835 iscritti. Sì. Lui in questo video c'è anche una specie di spin-off proprio nell'account dei The Show, che sono degli altri ragazzi che fanno queste delle altre grandi star di YouTube, che fingono di fare un servizio contro le alluvioni. Sentiamone un pezzettino, te ne mostro un pezzettino alla radio. Acciacci, è successo qualcosa di strano, è partita una sigla. Beh, non importa, Roberta. La nostra però. Beh, appunto, pensa sì. Se fosse partita quella di qualcun no. altro. No, la nostra va benissimo. Ce l'abbiamo la seconda clip di Fedez. Tranquilli, eccocela qua. E ancora una volta ci sostituiamo a magistratura, polizia e oserei dire Parlamento per risolvere i problemi che affliggono il nostro beneamato paese. Anche questo è TG Prank. Vieni. Alluvione, una sola parola che ha messo in ginocchio l'intera città. Siamo qui con una vittima che ha perso tutto: casa, famiglia, immagino, lavoro, speranza. Italiani, gente generosissima. Donate 2 euro al numero. In sovraimpressione, qui sono. Beh, devo dire, sono cattiveli nei confronti dei giornalisti d'assalto di alcune trasmissioni, però un po' ci sta. Sì, no, ma poi questa cosa che i cantanti si fanno la loro televisione, fanno i loro programmi televisivi, si raccontano, costruiscono. È sempre più. Beh, lui è una bella costruzione, globale del. Che lo dici con qualche tono critico? Purtroppo? No, assolutamente no. Assolutamente no. Che dire che il tempo no, è volato così adesso tanto. Adesso tu stai per partire per Taormina, dove ti aspetta Richard Gere. Ma come faccio io a sopportare? Ma sai invidia. Che Richard Gere rimane in Sicilia ancora per un'altra settimana perché gli piace così tanto e si aspetta, è organizzato. Immagino, è lì che. Guarda, vado, mi hai fatto talmente arrabbiare che adesso prendo e vado. Si vede dalla foto. Guarda, sei geloso. Dai, la prossima settimana ci vediamo. C'è anche il sabato del villaggio alle 3, sì. Mentre Radio Tube alle 5. Sì, che andrà in onda 17. Anche per tutto luglio. Dobbiamo ringraziare Roberta che ci ha sopportato nel nostro delirio. Roberta Frisani, Cristian Goldoni che ci ha aiutato a confezionare questa puntata. Salutiamo gli ospiti, Guido Gentili e Marco Dragoni. Ci sentiamo la sabato prossimo settimana. Ciao.